Ciao, noi siamo Magdalen da Pisa. Allora, vabbè, giusto due parole così, visto che siamo... festival come questo, comunque anche tutte le serate che vengono organizzate con lo spirito che noi e tutti quelli che sono qui portano avanti, sono la dimostrazione che non abbiamo bisogno di grosse etichette, di grosse società alle spalle che ci dicono cosa fare, e sono la dimostrazione che il DIY comunque è riuscito e sta continuando ad andare avanti in culo alle grosse etichette. Grazie. mio testo, spezzare le catene, rallentare i giochi, e liberarne i cuori, distruggere un impero, vendata senza dolori, rallentare i giochi, e liberarne i cuori, e liberarne i cuori. Liberarne il cuore! Liberarne il cuore! Liberarne il cuore! Liberarne il cuore! Scusa, potresti alzare un pochino la sua chitarra qui? Scusate, non sentivo una sega, sono un mongoloide. Scusa, anche un pochino qua nella spia della batteria, grazie. We'll be right back. rispetto, non conosce rispetto, non conosce rispetto. abbiamo ancora l'ultimo pezzo. Grazie a tutti, grazie all'X M e a tutti quelli che si sbattono per organizzare il festival. Grazie anche a voi, ciao. Se qualcuno gli interessa, fuori al banchino abbiamo un disco che è uscito da un po'. Grazie.